Noi studieremo scherzi anche domani. Domani è proprio la ricorrenza internazionale, quindi anche nazionalmente ci saranno molti nodi di non di meno, si faranno delle piazze. Noi saremo in presidio dalle 18:30 a Piazza Nettuno. Speriamo che il tempo sia bello come oggi, perché in realtà le previsioni non sono il massimo. Purtroppo scendiamo anche con un gran peso sullo stomaco, francamente, qua, perché nelle ultime due settimane, appunto, in regione ci sono stati dei femminicidi anche particolarmente brutali, e l'ultimo è stato quello a Reggio Emilia, e però appunto c'è stato quello di Elisa Mulas che ha sconvolto tutti, perché insieme ad uccidere appunto questa donna, l'ex compagno ha ucciso i suoi due bambini e la madre. Quindi insomma è stato un grosso colpo, ma nelle ultime due settimane sono stati 4 femminicidi in regione, quindi sentiamo anche particolarmente arrabbiate, ecco. Voi nel comunicato in cui chiamate la piazza sottolineate anche però che le misure che vengono adottate dalle istituzioni non vi piacciono. Sì, stiamo scendendo sia in piazza Bologna che in piazza Roma, in stretto giro con l'uscita del piano governativo contro la violenza. Questo piano, come denuncia anche Dire nei fatti, perché la rete Dire appunto ha scritto che nella costruzione del piano governativo nei fatti c'è stata una finta coprogettazione, poi il piano è uscito senza effettivamente nessun tipo di consultazione con i centri antiviolenza, che poi sono i primi e che sono in prima linea per fare fuori uscire appunto le donne dalla violenza. All'interno di questo piano c'è quello che viene chiamato reddito di libertà, che a parte essere una misura razzista, perché appunto tocca solo cittadine o straniere con permesso di soggiorno regolare, è una misura non sufficiente, sono 400 euro al mese per un anno, e la cifra che è stata effettivamente poi messa a disposizione arriva a toccare, mi sembra, solo 650 donne, contando che sono quasi 50.000 le soggettività che entrano in contatto con i CAV. Insomma, si capisce che è davvero davvero bassa e insufficiente, quindi è una piccola toppa che non ci basta assolutamente. E oltre a questo, ovviamente scendiamo in un contesto post-pandemico in cui c'è una riorganizzazione, c'è un PNRR che anche questo ci prende in giro, per quanto a parole si sostenga che i finanziamenti siano mirati anche a riequilibrare la diseguaglianza di genere, poi nei fatti tutti i finanziamenti passano dalle imprese, e si sa che poi le imprese sul lavoro sono le prime che hanno sfruttato il gender gap in qualche modo. È come se dicessero alle imprese che per non sfruttarci loro hanno bisogno di un incentivo, invece di andare poi effettivamente a dare i finanziamenti dove questi servono. Tutto passa da un premio alle imprese, e noi rimaniamo scandalizzate anche dall'utilizzo appunto di termini che in qualche modo sono stati anche i nostri, in questo modo davvero imbarazzante. L'appuntamento è domani alle 18:30 in Piazza Nettuno.